Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono sull'isola di San Giorgio a Venezia e sono alla collezione Giorgio Cini, che ospita in questi giorni una mostra a dir poco strabiliante, perché si tratta di una selezione delle collezioni di miniature e libri miniati che il conte Vittorio Cini comperò tra il 1939 e il 1960 e poi nel 1962 decise di donare a questa fondazione che porta il nome di suo figlio. Questa occasione è più unica che rara, perché le miniature e i libri miniati di solito sono chiusi alla vista del grande pubblico. Tra l'altro, in questa occasione è stato fatto il catalogo generale, cioè per la prima volta si è studiato in modo sistematico tutta questa straordinaria raccolta, che conta più di 20 libri interi miniati e più di 240 miniature ritagliate. La mostra è interessante perché ci inoltra anche nel mondo di questa arte difficile, di questa arte aristocratica. Intanto ci fa vedere come purtroppo tra 800 e 900 si ritagliassero i libri miniati, cioè i grandi libri di coro oppure i messali che non servivano più, e si salvassero solo le parti decorate, cioè i capilettera o le parti storiate, per essere immesse sul mercato antiquariale. Oppure si salvarono i libri più preziosi, quelli più piccoli. Per esempio, la collezione Cini ha un libro stratosferico dal punto di vista storico e artistico, cioè un libro che venne fatto miniare da Ludovico il Moro per essere regalato a Carlo VIII, re di Francia. Quindi, capite, un regalo diplomatico di altissimo livello. Infatti è miniato dal miniatore di corte che si chiamava Birago, il miniatore degli Sforza. Poi noi possiamo vedere per esempio come funzionava la costruzione delle miniature. Ecco, le miniature le si producevano cominciando dalla pergamena, dalla pelle. Si raschiava la pelle, la si lisciava, poi la si tagliava nel formato giusto, poi c'era qualcuno che prima scriveva i testi, si lasciavano libere gli spazi dove c'erano da fare le miniature. Magari in latino si scriveva hic po Unitur pape, qui ci metterai la figura di un papa, diceva lo scrivano al miniatore. E poi passavano alle biblioteche miniatorie le pergamene sfascicolate, e con questo sistema hanno realizzato questi libri meravigliosi, che naturalmente sono meravigliosi anche perché sono rimasti chiusi per secoli o usati da pochissime persone, e oggi grazie a questa mostra possiamo goderli tutti quanti.